Letture di Radio 24. Il linguaggio quotidiano è infestato da luoghi comuni, spesso creati e diffusi dai media. Uno di questi è il concetto di temperatura percepita. La temperatura percepita è un tipo di temperatura che prima non esisteva e la gente moriva di caldo senza sapere perché. È stata scoperta per caso, misurando la doppia temperatura di soggetti schizofrenici. E ormai è diventata un'acquisizione stabile nel bagaglio meteorologico degli italiani, ai quali è piaciuta subito perché dà il senso della calura molto di più del termometro classico. La ragione è evidente. Un termometro non dichiarerà mai la temperatura vera della gente. La gente ha sangue nelle vene, non mercurio, se non saltuariamente quando mangia pesce. La temperatura percepita viene rilevata scientificamente su un campione di 1000 individui demoscopicamente disponibili, previa liberatoria in cui accettano di sottoporsi alle prove demoscopiche più estreme. Sono graditi i soggetti deboli, le donne incinte e soprattutto gli anziani, in quanto categoria demosensibile alle alte temperature. Le rilevazioni, infatti, sono eseguite nelle giornate più torride di luglio e agosto, quando non tira un filo d'aria e l'asfalto si scioglie. Generalmente i percettori di temperatura o soggetti demoscopati nel linguaggio tecnico sono convocati con sciarpa, guanti e cuffia di lana, paltò e dopo sci. Il luogo della prova è un piazzale senza un albero, dove devono attendere in piedi, sotto il sole a picco, senza muoversi e senza parlare fra di loro, pena la non validità della rilevazione. L'attesa dura dalle 2 alle 6 ore per far maturare le condizioni ottimali per il test demoscopico. Quando queste si verificano, i soggetti vengono interpellati uno per uno da rilevatori specializzati. «Scusi, lei che temperatura percepisce?» Se uno dichiara una temperatura troppo bassa, per esempio inferiore a 40 gradi, gli fanno indossare anche un golfino d'alpaca o un maglione irlandese col collo alto e gli ordinano di fare 20 giri del piazzale a corsa sostenuta. La temperatura percepita, infatti, deve essere di almeno 45 gradi, altrimenti non viene omologata. Se uno sviene, lo svegliano facendogli aria con un phon. Se uno si lamenta per la sete, gli fanno bere un grappino. Se uno dà segni evidenti di disidratazione, gli somministrano una patata calda. Vige inoltre lo sbarramento del 5%, nel senso che almeno 5 anziani su 100 devono perire per il caldo, se no la prova demoscopica viene invalidata. Alla fine viene stilata una media rigorosa e quella è la temperatura percepita ufficialmente omologata, valida per tutto il territorio nazionale, compresi l'amico Stato Pontificio, l'alleata Repubblica di San Marino e i territori irridenti della patria dove mafia e camorra fanno il bello e il cattivo tempo e quindi anche la temperatura. L'Europa prende atto del caldo percepito senza interferire nella temperatura interna di uno Stato membro dell'Unione, purché non vengano sforati i parametri di Maastricht. I committenti della temperatura percepita sono i telegiornali, che la sera possono aprire con titoli misurati malloffi. Caldo killer, gli anziani muoiono come mosche, temperature da incubo. Avete ascoltato la lettura di un capitolo dal libro di Maurizio Garuti, La lingua neolatrina, edizioni Pendragon, 208 pagine, 14 euro. Alan e Barbara Pease sono la più celebre coppia di scrittori australiani. Nel loro ultimo bestseller analizzano da un punto di vista scientifico il modo diverso in cui uomini e donne ragionano, comunicano e agiscono. Il linguaggio del corpo rivela che nella comunicazione a quattro occhi i segnali non verbali rappresentano il 60-80% dell'impatto del messaggio, mentre i suoni vocali ne costituiscono il 20-30%. Il restante 7-10% sono parole. La maggiore sensibilità permette a una donna di cogliere e di analizzare le informazioni. La capacità del suo cervello di trasferirle rapidamente da un emisfero all'altro la rende invece più abile nell'integrare e decifrare i segnali, soprattutto quelli verbali e visivi. Questa è la ragione per cui molti uomini hanno difficoltà a mentire a una donna a quattro occhi. Ma, come molte donne sanno, mentire a un uomo nella stessa situazione è piuttosto facile, in quanto non possiede la sensibilità necessaria per individuare eventuali incongruenze fra i segnali verbali e quelli non verbali. Avete ascoltato un passaggio dal libro di Alan e Barbara Pease, Perché le donne non sanno leggere le cartine e gli uomini non si fermano mai a chiedere. Sonzogno Editore, 240 pagine, 13,40 euro.